Quando le stelle risplendono, io son felice perché tu che mi parli d'amor con timor, con pudor. Sotto la luna va in estasi, m'ami con tanto calor. Sai che nessun ci vedrà, ma chissà, ma chissà, se la luna facesse la spia, mamma mia, nel vederci baciar per la via, lo direbbe alla mamma e al papà, quando dici farò una pazzia. Mamma mia! Oh mamma mia, nel sentir questa grossa bugia, griderebbe dal cielo, ma va, ma la luna lassù guarda zitta perché si diverte a sentire, a veder. Tu mi stringi di più sospirando, per me un amore più grande non c'è. Se la luna facesse la spia, mamma mia, mamma mia, quando solo mi lasci vai via, io saprei chi va insieme con te. Gli innamorati nei cinema rubano un bacio d'amore, ma se la luce verrà, patatrà, patatrà. Meglio una strada ed un vicolo sotto il chiarore lunare. Tutto tentarsi potrà, ma chissà, se la luna facesse la spia, mamma mia, nel vederci baciar per la via, lo direbbe alla mamma e al papà, quando dici farò una pazzia. Mamma mia, oh mamma mia, nel sentir questa grossa bugia, griderebbe dal cielo, ma la luna lassù guarda zitta perché si diverte a sentire, a vedere. Tu mi stringi di più sospirando, per me un amore più grande non c'è. Se la luna facesse la spia, mamma mia, mamma mia, quando sola mi lasci e vai via, io saprei chi va insieme con te. La luna ci tiene compagnia, vita mia, se facciamo pure qualche follia, lei sorride ma in nulla dirà.